24, i gialli della storia. Siamo stanchi delle paure, siamo stanchi delle divisioni, vogliamo qualcosa di nuovo, vogliamo girare pagina, vogliamo prendere il testimone dall'ultima generazione. È davvero entusiasmante. Mi ricorda molto John Kennedy degli anni 60. He's clearly very intelligent. È chiaramente una persona molto intelligente. Non c'è un'America progressista e un'America conservatrice. C'è qualcosa che si chiama Stati Uniti d'America. Lui era divertente, autoironico e aveva questa sorprendente storia alle spalle. Mio padre veniva dal Kenya, dall'Africa. In Swahili, Barak significa benedetto da Dio. Mia madre viene dal Kansas, ecco dove ho preso il mio accento. Sono certo che se diventerà presidente ci farà uscire dall'Iraq. Il suo principio è che alla fine la gente deve vincere, non pochi ricconi. È il primo serio candidato nero. Dai sobborghi, dalle città, dalla parte sud dello Stato, dalla parte nord dello Stato. Bianchi, neri, ispanici, asiatici. Io dichiaro sì, noi possiamo! Sì, noi possiamo! Mancano solo poche ore all'elezione del 45esimo presidente degli Stati Uniti. Un'elezione difficile che vede contrapposti il candidato democratico Hillary Clinton e il repubblicano Donald Trump. Una battaglia senza esclusione di colpi che sta spaccando in due l'America. Ma dietro a questa elezione c'è qualcosa di più. Dopo 8 anni in cui l'America ha scelto per la prima volta nella sua storia un candidato di colore, c'è la possibilità che faccia un'altra scelta storica. Quella di aprire le porte della stanza ovale a una donna. Ma quali sono state le armi con cui Barack Obama ha vinto? Quali sono state le sue promesse elettorali e i suoi slogan? E come è stato percepito dall'elettorato americano questo giovane e inesperto senatore dell'Illinois? Ripercorreremo quindi a Mix 24 la sua campagna elettorale di 8 anni fa, a partire dalla sua discesa in campo, con l'aiuto dei giornalisti Noah Schreiber, Wesley Pruden e Aman Ali e all'osservatore politico Peter Beinart. Hello, I'm Barack Obama. Salve, sono Barack Obama. C'è qualcosa che dovete sapere. Questa campagna riguarda voi, le vostre speranze, i vostri sogni, la vostra fame di cambiamento. Riguarda la trasformazione del processo politico che metta in discussione il privilegio di Washington e sospinga la nostra nazione su un cammino migliore. Noi possiamo dare una fine a questa guerra sbagliata in Iraq e restituire all'America il suo posto nel mondo. E possiamo finalmente fare dell'assistenza sanitaria per tutti una realtà. Possiamo liberarci dalla schiavitù del petrolio e molto altro, ma possiamo farcela solo insieme. Barack Obama è un candidato molto interessante in termini di politica americana perché rappresenta una figura nuova sulla scena. È spuntato dal nulla nel 2004, ha corso per il Senato dell'Illinois fronteggiando una concorrenza numerosa e poi è diventato una vera figura politica nazionale alla Convention Democratica del 2004 con quel famoso discorso mozzafiato che sorprese tutti. Non c'è un'America progressista e un'America conservatrice, c'è qualcosa che si chiama Stati Uniti d'America. He's clearly very intelligent. È chiaramente una persona molto intelligente, più intellettuale di quanto lo siano i tipici politici americani. Ad esempio, è un ottimo scrittore ed è a proprio agio col colore della sua pelle. Considero Barack Obama un uomo politico estremamente sofisticato. E credo che la gente sovente si lasci fuorviare dalla sua relativa inesperienza quanto al dibattito politico. Barack Obama, per molti versi, incarna un fenomeno sociologico prima che politico. È il primo serio candidato nero. Abbiamo avuto diversi candidati neri in passato. Jesse Jackson, il più famoso, ma anche Doug Wilder, eccellente ex governatore della Virginia. Ma per tutta una serie di motivi non hanno mai saputo catalizzare l'attenzione degli elettori. Obama invece è riuscito a richiamare gli sguardi su di sé, principalmente perché riesce ad andare oltre la questione razziale, e questo è un fatto molto importante in America, dove la razza è una vera ossessione. Lui parla esplicitamente di questo padre che arriva dal Kenya, di questa madre del Kansas. Dice che è per suo padre, che è un nome buffo come Obama, e da sua madre ha preso quell'inflessione da America profonda. Il tutto è una precisa allusione che significa: ho in me un po' di tutto. Non c'è un'America nera e un'America bianca, un'America ispanica e un'America asiatica. Ci sono gli Stati Uniti d'America. Siamo stanchi delle paure, siamo stanchi delle divisioni, vogliamo qualcosa di nuovo, vogliamo girare pagina, vogliamo prendere il testimone dall'ultima generazione. Penso che la gente sia stufa del tradizionale modo di fare politica di Washington. Ci sono stati troppi scandali di corruzione, c'è gente che è restata in carica troppo a lungo. Obama, agli occhi di tanti, rappresenta un soffio di aria fresca. Sono arrivato a Chicago per lavorare in una comunità che aveva bisogno di aiuto per rialzarsi dopo i disastri seguiti alla chiusura delle grandi acciaierie nell'area sud della città. E la migliore educazione che ho ricevuto proviene proprio dall'aver lavorato con la gente comune, a livello di base. È là che ho imparato che quando si fanno le cose insieme si possono raggiungere risultati straordinari. Si è radicata l'idea che la nazione verrà scossa alle fondamenta da qualcuno che raggiungerà un grande potere politico sapendo mantenere una personale, profonda connessione emotiva con gli ultimi della società. Il genio dei nostri padri fondatori ha impostato un sistema di governo che può essere cambiato. Abbiamo cambiato questa nazione già in passato, fronteggiando la tirannia, quando un gruppo di patrioti ha messo in ginocchio un impero. Poi, di fronte alla secessione, siamo riusciti a unificare il paese e a liberare gli schiavi. Al cospetto della depressione abbiamo rimandato la gente al lavoro. Siamo riusciti a sottrarre milioni di uomini alla povertà, a far sbarcare gli immigranti sui nostri lidi, ad aprire le ferrovie verso l'ovest, a sbarcare l'uomo sulla luna. Ho capito che c'era tanto da fare a livello locale quanto alle questioni a cui ero interessato. Così sono tornato a studiare legge ad Harvard. E poi sono tornato per occuparmi del progetto per la registrazione alle liste elettorali. Siamo riusciti a registrare 150.000 nuovi elettori. Ho cominciato a occuparmi di cause civili concernenti il diritto di voto e ho insegnato legge costituzionale all'Università di Chicago. Per guidare gli Stati Uniti bisogna fare i conti con la questione religiosa e col bisogno che ha il popolo americano di credere. Quindi un altro strumento della campagna presidenziale di Obama è stata la sua fede e la sua passione con cui l'ha proposta. E anche in questo il suo approccio è stato unico e originale. A parlarcene i giornalisti Wesley Pruden e Garrett Graff e poi il reverendo Jeremiah Wright, suo padre spirituale. In America, a partire dagli anni 60, c'è un vastissimo incremento di persone che si autodefiniscono laiche. Ciò ha prodotto una reazione fondamentalista, ovvero quel centro fatto di persone che erano religiose ma anche moderne, ha cominciato a sfaldarsi. E la nazione ha finito per polarizzarsi tra una popolazione secolare e una fondamentalista ed evangelica. Una schierata col Partito Democratico e l'altra con il Partito Repubblicano. Ciò che di Obama attira molti americani è che offre speranza. Il suo ultimo libro si intitola L'audacia della speranza, un'espressione tratta da un sermone del suo pastore che l'aveva particolarmente colpito sul tema dello slancio di speranza che dovremmo avere in questa nazione. Mi sono trasferito in Illinois più di 20 anni fa. Ero un ragazzo, appena uscito dal college. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno a Chicago. Non avevo soldi né presentazioni. Ma una congregazione di chiese mi ha offerto un lavoro come organizzatore della comunità per la bella somma di $13,000 l'anno. E io accettai sulla base di un'idea semplice e intensa. Potevo giocare un piccolo ruolo nel costruire un'America migliore. Per Obama, insomma, Chicago è la seconda patria. Nei quartieri più poveri della città agisce la Trinity United Church of Christ, la chiesa del pastore Jeremiah Wright, l'uomo che ha formato la fede di Obama. E, sostiene qualcuno, anche colui che gli avrebbe fatto conoscere i principi separatisti della chiesa afroamericana. Quando era ancora giovane, meno che trentenne, Obama è diventato un cristiano evangelico. Ha cominciato a frequentare una chiesa fortemente evangelica di Chicago, dominata da un predicatore carismatico. Se oggi ascolti Obama, puoi cogliere la forte influenza della chiesa afroamericana a partire dal suo stile oratorio. La parte meridionale dell'Illinois, posti come il Cairo, Carbondale, quello è il territorio del Ku Klux Klan. Lui ha raccolto una formidabile messe di voti laggiù, e questo perché era capace di far passare delle leggi. E nel periodo in cui ha fatto parte del Senato dello Stato, ha prodotto benefici per quella gente. Il suo principio è che alla fine la gente deve vincere, non pochi ricconi. Obama ha un forte senso della caducità della vita. Pensa di essere stato messo sulla terra da Dio solo per un limitato periodo di tempo e che sono molte le cose che deve fare durante il suo soggiorno terreno. Obama è un nome islamico e, come ho detto, questo suscita il sospetto, in particolare nei cristiani evangelici. Di conseguenza adesso Obama sta facendo di tutto per far sapere di essere membro di una chiesa cristiana. What is particularly unique about his story in the way that he talks about it is the way Obama that he has sort of struggled with faith. È un caso raro per come descrive la sua lotta con la fede. Non è sempre stato un cristiano devoto. Adesso ha una vita religiosa molto attiva. E l'argomento occupa anche buona parte dei suoi discorsi. Ma credo che sia in grado anche di indicare una strada agli americani che non sia necessariamente ideologicamente connessa con la religione. Io ho una profonda fede in ciò che il dottor King chiamava l'amata comunità. Non parlava di amore nel senso letterale, in chiave romantica, ma intendendo piuttosto il senso di empatia e compassione per il prossimo, visto come forza trainante. Io credo che in politica estera noi non possiamo essere ingenui e che ci sono casi nei quali la forza militare è importante, ma credo anche che sia sempre l'ultima e non la prima risorsa, come pare indicare la nostra incursione in Iraq. Ed è proprio la guerra in Iraq l'altra arma che Obama usa nella sua campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti. Dall'Iraq bisogna andare via e riportare la normalità nella regione, diceva allora. Molti di voi sanno che mi sono opposto a questa guerra fin dall'inizio. Pensavo fosse un tragico errore. Oggi piangiamo per le famiglie che hanno perso i loro amati, per i cuori spezzati, per le vite che non ci sono più. America, è ora di cominciare a riportare le nostre truppe a casa. Per gli elettori democratici è importante che lui sia stato da subito e coerentemente contro la guerra, che per loro rappresenta un enorme problema. Più di 3.400 vite perdute. La gente guarda a questo stato di cose e dice: bisogna fare grandi cambiamenti. Dobbiamo avere ottimismo per il futuro, ma dobbiamo avere anche realismo riguardo al presente. E se abbiamo imboccato un sentiero sbagliato e perseveriamo nell'errore, finiremo per produrre la prima generazione da molto tempo a questa parte che avrà in dote un'America più povera e meno vivibile di quella che i nostri genitori hanno lasciato a noi. Questo non è giusto. Questo è anti-americano. La posizione sull'Iraq è uno dei suoi punti di forza adesso. Ma le cose potrebbero cambiare. Se arrivasse un altro attacco, come quello dell'11 settembre, o anche qualcosa di meno drammatico, tutti i democratici che hanno gridato a oltranza che Bush avrebbe sopravvalutato la minaccia islamica si prenderebbero un sacco di uova in faccia. Penso che abbia uno sguardo più creativo riguardo agli affari internazionali, che non sia troppo ostile, troppo pugilistico. Credo che una persona come Obama potrebbe fare in America quello che nessun altro potrebbe. E io voglio vivere in quel tipo di America. Ma la vera arma vincente per Obama sarà la voglia dell'America di rompere l'egemonia dei casati, le famiglie che negli ultimi anni hanno dettato legge nella politica americana. Da un lato i Bush, dall'altro i Clinton, ancora i giornalisti Wesley Pruden e Garrett Graff. Stiamo radunando folle incredibili in tutti gli angoli del paese. Alla marcia di Atlanta si sono presentate 20.000 persone. A Austin, in Texas, c'erano altre 20.000 persone. Unbelievable! Incredibile! Oh, look at this. Guardate! Le persone chiedono perché si radunano simili folle. Mi piacerebbe dire che è merito mio. Ma sono invece convinto che la gente abbia capito che è giunto il momento di affrontare una sfida. Una sfida più importante di tutte quelle affrontate da questa generazione. E so che tutti i presenti in questo auditorium sanno di che sfida sto parlando. Il malessere generalizzato nel paese riguarda questo continuo passaggio di potere tra la famiglia Bush e la famiglia Clinton negli ultimi 20 anni. Di sicuro non il metodo migliore per governare una nazione di 300 milioni di persone. Rispetto a questo, Obama offre un approccio del tutto nuovo. Conta su uno scarto generazionale rispetto agli altri e arriva dopo le glorie anni 60. Questo continuerà a essere uno dei suoi punti di forza. Negli ultimi 6 anni ci hanno detto che il nostro crescente debito pubblico non contava, che la crescente ansia degli americani per i costi crescenti della sanità e la stagnazione dei salari erano illusioni. Ci hanno detto che l'effetto serra era una bufala. Ci hanno detto che gli atteggiamenti duri e una guerra sbagliata possono rimpiazzare la diplomazia, la strategia e la lungimiranza. Quando poi tutto va in pezzi, quando arriva Katrina, quando il prezzo in vite umane della guerra aumenta, ci dicono che la colpa della nostra crisi è degli altri. Veniamo distratti dai nostri effettivi fallimenti e veniamo spinti a incolpare qualcun altro, gli omosessuali o gli immigranti. L'ex presidente Bush, il padre, ha detto in una recente intervista che probabilmente è subentrata una stanchezza da Bush nel paese. Credo che la gente adesso cerchi qualcosa di fresco, di nuovo. Uno degli argomenti ricorrenti di Obama è contro il cinismo, che poi è contro la politica come routine, contro quegli atteggiamenti sporchi e cattivi con i quali distruggi la parte avversa. È un tema che affonda radici profonde nella storia americana. Il tema delle riforme, del buon governo, risale su fino al nostro 800. Obama si propone come strumento del cambiamento, immaginando come Lincoln un concetto alto di unità nazionale. Ancora i giornalisti Aman Ali e Garrett Graff. Il tempo per questo tipo di uomini politici è finito, è passato. È ora di girare pagina, qui e subito. Spesso ricorre a paragoni con altri oratori o pastori del passato. Si sta orientando verso un modo di esprimersi ispirato, se non alla tradizione, a quello stile carico di energia. Questo Abraham Lincoln l'aveva compreso. Aveva i suoi dubbi, aveva le sue sconfitte, aveva i suoi ostacoli, ma con la sua volontà e le sue parole ha mosso una nazione e ha contribuito a liberare un popolo. È grazie ai milioni di persone che hanno seguito la sua causa che non siamo più divisi tra nord e sud, tra liberi e schiavi. È grazie agli uomini e alle donne di tutte le razze e di tutte le origini che hanno continuato a marciare per la libertà ben dopo che Lincoln è passato a miglior vita, che noi oggi possiamo fronteggiare insieme le sfide del millennio come un unico popolo, come americani. I suoi modelli, Lincoln, Gandhi, Martin Luther King, provengono tutti dalla storia e sono chiamati a suggerire un'immagine solenne che offra alla nazione, che ispiri, la sensazione di un grande cambiamento storico. Ma la vita di quell'alto, dinoccolato avvocato di Springfield autodidatta ci dice che un futuro diverso è possibile. Ci dice che c'è potere nelle parole, che c'è potere nelle convinzioni, che al di là di tutte le differenze di razza e religione, noi siamo un unico popolo. Ci dice che c'è potere nella speranza. Il 4 novembre del 2008 Obama viene nominato 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, carica che conserverà per 2 mandati. Non è riuscito a mantenere le sue promesse elettorali, ma tra i successi che può vantare ci sono l'approvazione a livello nazionale del matrimonio omosessuale, la riapertura delle relazioni diplomatiche con Cuba e la successiva rimozione dell'embargo. Ci vorrà del tempo per valutare lucidamente la sua presidenza, ma una cosa è certa: con la nomina di Barack Obama l'America ha compiuto un passo in avanti dal quale sarà difficile tornare indietro, anche se le valutazioni sono molto diverse e la distanza fra le promesse e la realtà è molto alta.